Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli. L'Unione Europea è intenzionata a prendere una decisione sul nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia alla luce dei fatti che oggi potrebbero portare a un accordo per il cessate il fuoco nel sud-est dell'Ucraina. Ma se non ci saranno sviluppi, le nuove misure minacciano di colpire duramente i settori strategici per Mosca come il petrolio e l'industria militare. Secondo il Financial Times, che ha preso visione della bozza del documento all'attenzione degli ambasciatori dei paesi UE, le nuove sanzioni riguarderebbero società statali russe del petrolifero e della difesa con asset di valore superiore a 1.000 miliardi di rubli, qualcosa come 25 miliardi di euro. Ma sentiamo il punto allora dal vertice in corso in Galles, dall'inviato del Sole 24 Ore Beda Romano. E le sanzioni probabilmente saranno di due tipi. E le prime saranno sanzioni economiche. La Commissione ha presentato un certo numero di misure, sono misure che colpiranno, come è successo già a fine luglio, alcuni settori, fondamentalmente l'energia, gli armamenti, cose di questo tipo. L'altra forma di sanzione è invece una sanzione più personale, andranno a colpire altre persone, altri esponenti dell'establishment russo, si parla di una ventina di persone, alcune delle quali potrebbero essere addirittura membri del governo. Credo che i diplomatici vogliano da un lato preparare comunque questo pacchetto di sanzioni e poi decidere sulla base delle informazioni che verranno da Kiev, da Minsk, da Mosca e possibilmente anche da Cardiff, dove si sta concludendo un vertice della NATO. In base a tutte queste informazioni i paesi decideranno se applicare il pacchetto di sanzioni immediatamente oppure di congelarlo in attesa di capire come sta evolvendo la situazione. Staremo dunque a vedere naturalmente tutti gli aggiornamenti nei prossimi giornali radio. Un tema completamente diverso, quello che affrontiamo, il contrasto alla pedofilia a livello europeo. Non si fa abbastanza a livello appunto di Bruxelles, ecco però una proposta per rinforzare l'azione dei paesi membri e a livello internazionale. Anche se rimane materia di competenza nazionale, come tutte le leggi penali, per contrastare la pedofilia a livello europeo è necessario rinforzare le agenzie europee specializzate già esistenti, lo afferma Emma McClarkin, membro del Parlamento europeo, che sottolinea come tutte le task force europee e internazionali dovrebbero lavorare insieme per condividere le informazioni per scovare i casi di sfruttamento dei minori. Nel Regno Unito abbiamo istituito un team nazionale per contrastare lo sfruttamento dei minori e di tutte le persone vulnerabili. Sia online sia nelle nostre comunità. Deve essere una priorità e deve essere presa sul serio. Attualmente esiste un centro europeo contro i crimini informatici, un'unità ospitata dall'Europol, l'Agenzia Europea di Polizia, che combatte contro i crimini online. Alcuni paesi, come Regno Unito e quelli del Nord Europa, Norvegia, Svezia, Finlandia, sono più attivi, ma il centro non ha sufficiente staff, soltanto 10 persone per gestire tutti i casi, ed è necessario rinforzarlo. Hanno bisogno di più risorse per assicurarsi di poter rintracciare queste reti di pedofili e di ottenere le informazioni necessarie per incriminarli. Perciò vorrei dire agli Stati membri che devono considerarlo una priorità come è successo nel Regno Unito. E questo vuol dire investire risorse su queste agenzie. Questo permetterebbe loro di dare informazioni a un qualsiasi paese se vi trovano delle tracce e dare modo di portare i pedofili di fronte a un tribunale. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo è tutto. Europa 24 torna lunedì alle 14. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.